Pronto, purtroppo già lo sai com'è. Oia, questa malattia, una prigione, è una prigione. Sì, cosa vuoi mamma fare? Già lo so, e io che ci stavo attentomi, purtroppo da quando mi è venuta la pancreatite, mi è venuta anche quella presso. Perché all'ospedale me l'hanno trovata. Dimmi tu. Un attimino. Marco, che fine hai fatto? Ma Marcolino sei inabissato. No, sono qua, ci sono dei lavori, sento rumori di trappano, di cose lì. Mi ha un po' distratto. Dicevate, ah no, volevo dire Antonio, ma ieri ho capito male, chi è che frigge con Luca e che frigge, che fa le fritture con l'olio d'oliva? Ah tu, e forse sta rispondendo al telefono, dai, vai tu Natali. Marcolino. Natali, mi ero distratto un attimo, poi ho richiamato, non ha ripreso nessuno. Forse Giulio anche si è allontanato. Io ero al telefono e mi hanno telefonato, capito? Aspetta un attimo che mi hanno anche suonato adesso. Sì, prepotente, se esco così io col K. Sì, più o meno. Sì, è molto Natalino, metto nei bassi, cioè. Poi vabbè, questo bracchino riceve anche un po' con toni bassi. No, ti dicevo Anto, ma ieri stavate parlando di friggere con olio d'oliva, ma chi è Luca che frigge con olio d'oliva? Oh, ma sto uscendo in radio, aspetta. Marco, ci sei? Anto, ogni tanto ma stai rispondendo al telefono? No. Ehi, no, ti ho chiesto già due volte e poi non mi hai sentito. Chi è che frigge con l'olio d'oliva? Ieri ho capito, Luca frigge. Dice che la mamma frigge con l'olio d'oliva. Io non lo reggo, troppo forte. Io ho olio di semi, olio di girasole, ma olio d'oliva troppo forte per me. No, non mi piace. Può darsi che vada bene per qualcosa di particolare, ma per friggere le normali cose troppo forte, no? Costa pure di più. No, non è indicato, ma per il matato avevo visto chido dei gozo. Chido di semi, da. Azzo, ma non se ne può comparare. Cioè, se mi do cosa da. Allora si dice lo zocco, ci piglia un bidoncino che ce l'ha in colito. Io lo compravo sempre prima, perché costava di meno. Manco più buono a carburante, che so. E quindi se l'olio di semi è aumentato, l'olio di arachide costava già il doppio già prima, no? Normalmente. Dal discount se pagavi l'olio di semi 1,20 e l'olio di arachide 2,40, figurati adesso, sarà aumentato anche quella di smisura. Chi do ruglio ma fa un mattato non ne fa più tempo. È caro, prima che anche tu non ti rifugia, diventava serbatoio, ma fa un carburante, ma fa carburante, diventava diesel. A me non si può più punire, manco visto. Sì, mi ricordo, anche chi è che aveva provato, c'era un CB che aveva provato, aveva la macchina diesel e mi pare l'alimentasse con l'olio di colza e funzionava il motore, certo magari faceva un fiago dalla marmitta, però funzionava, e invece ti costa meno il diesel, capito, là, il gasolio. Ma nelle macchine moderne non lo puoi mettere, quei motori vecchi diesel sì che funzionavano, se io lo metto nella mia per esempio, che non è tanto recente, però la mia è evoluta a confronto alle altre, si crepa il motore. Ma probabilmente era una macchina un po' datata, ti sto parlando già di anni fa e più la macchina poteva essere, forse era Antonio, ma Antonio che era diventato radiatore, è grande. Aveva detto di aver fatto questo esperimento, all'epoca risparmiava, adesso magari da quanto è aumentato l'olio costa molto meno il gasolio direttamente. Ma cosa che tu riparte, lascia perdere, non metti il motore moderno e cosa, non li fate assolutamente nulla, tu li buono un litro, a scommessa, il buono un litro, due litri, non li fate nulla, anzi cambia burro di più, a scommessa tutto quello che vuoi, va. Boh, i motori moderni sono tutti fiaghini, sono tutti delicati, non so come sia per il diesel. Io poi motori diesel non ne ho mai avuto, lui sempre benzina, a parte il nonno, ma stiamo parlando di 50 anni fa. Guarda, io ti posso assicurare una cosa, che non gli fa assolutamente niente, l'avevo già provato, se lo vuoi proprio sapere. Avevo un paio di litri, anzi, questa macchina ha cominciato a camminare, non ne avveniva più. Quindi no, non sono bugie, non li fa di nulla. Meglio pure. Poi colza, ma che colza? Non è arachidi, mai si brucia tutto, cosa colza? Se lo mettono alla mia, ti sto dicendo, si crea la pompa di iniezione immediatamente, perché a me me l'ha detto il meccanico, attenzione a non mettere altra cosa che il diesel, perché se no subito ti si crea la pompa di iniezione, immediatamente mi ci si greba. A chi è buru, io vado addirittura, lo dice l'agricolo, manco quello mi ha detto, guai a te, non è bunito, un meccanico mi l'ha detto. Indigeni di macchine vecchi, di promotore idratore, sì, poi buoni su di voi. Però nelle macchine moderne, Nisba, ti si rompe la pompa di iniezione subito. Ma ti faccio una gaggata, vai. Sì, se metti gasolio agricolo, sì, ti fa del casino, è vero. Ma se rimoni rozzo, è più pulito del gasolio. Non li fa, sì, una bella minchia non li fa. Di agapigli, vai. Ma tu, ma più di un meccanico ne vuoi sapere tu? Sei della meccanico, che era il meccanico mio ed era cazzo capo officina della via, era, fissu, e ne vuoi sapere più di un meccanico? Mi ha detto assolutamente no, perché ti si crepa subito la pompa di iniezione. Ti ho detto che non li fa un cazzo, è olio, Forse perché è più denso l'olio rispetto al gasolio e allora il iniettore non riesce a pomparlo, a, come si dice, a nebulizzarlo. Natali, può essere? Può essere sì, perché i motori di vecchia concezione lo accettano, l'olio di corsa, li puoi mettere il cazzo che vuoi, diesel agricolo, ma non mi devi bunirlo nei motori nuovi, perché hanno le pompe che sono più delicate e si crepano. All'andare del tempo che si greba la bomba, tranquillo, e me l'ha detto il meccanico a me, assolutamente a nostri bimbi, a se c'avevo il trattore grande e mettevo diesel agricolo lì, mettevo, perché era fatto per quel motore, che sono di concezione diversa dalle macchine. Allora, lascia perdere il gasolio agricolo usa che puccarina, cioè è pieno di cose, è incasina tutto, io sto parlando di olio e sto parlando anche che molti, siccome è ghigiozzo, cioè ghigio gasolio è un po' d'asciutto, molti meccanici consigliano, se no vai in giro e glielo chiedi, consigliano di metterci un po' di olio a due tempi, proprio per la pompa, per farla lavorare bene, capito? Perché è troppo asciutto questo gasolio che stanno mettendo ultimamente, quindi ha detto, dille a un meccanico di farsi una maledetta delle telebagaggia, una bella cagata, perché così tu vai e ti faccio parlare con tante, te lo dico, devi mettere un po' d'olio nel gasolio, ma quando è troppo asciutto. Invece io lo so se ho messo, ho fatto il pieno e ho messo l'additivo, ma sei più sicuro. Ho messo l'additivo col pieno del gasolio. A chi io mi sono dato, mica la macchina mia c'ha 20 anni, eppure un orologio. Quello lì, vedi, quello già li fa bene. Ogni tanto però, Purughiso non è che lo devi trattare come ti vuoi tu. Ogni tanto quello lì si mette. Già lo so, quando fai il pieno lo metti. Io poi non la lascio mai a riserva la macchina, e quello vuol dire molto, a non camminare a riserva, perché quando tu cammini sempre a riserva, pure il Limasuli, già è un motore sporco quello diesel, figurati tu, se lo fai andare a riserva, tutti i Limasuli del serbatoio vanno a finire nel motore. prima del filtro di lama fatta il tutto. Io la manutenzione alla macchina mia gliela faccio ed è un orologio che ha 20 anni la macchina mia, perché nel 2001 ma poi chi ci andava a livello puro come un re ogni tanto già li fa bene quello lì noi ogni tanto li stiamo mettendo blu diesel adesso quanto cammina, quanto rende. Ma il blu diesel dice che è troppo asciutto, mi hanno detto. Io non ne ho messo mai nella macchina mia. Il tech non è. Per quello vecchio era asciutto. Blu diesel tech no. Ma il bisogno è già mi poi nata lì, comincia a camminare a voce. Ma io la tanto io non ho né di curri, né chi c'è né chi anzi, come quella macchina anda canto con lui, io, no canto anda edda. A chi c'è la mia, mia? Allora tu cammina. La mia ci mette poco a fare 200. E allora con Gomorrelli. Motore. Però andavano bene quelli lì, cazzo. Una meraviglia. Ma lo sto dicendo ogni tanto però consigliano di mettergli olio dentro il coso, olio a due tempi, quello è per lubrificare la pompa, capito? Lo metti in mezzo al gasolio quello, allora che ancora rifazzi bene per lubrificare la pompa serve. No, noi siamo trattenti più che altro blu diesel. La macchina cammina bene. E beh, pedibella, ma non mi dovevi telefonare tu? Non c'è migliore telefonare. Buona mattina, no, pace, ti porto tutto, non ti preoccupare. E va bene, pedibella, quando tu fai così io ti temo a te. Lo sai che io non te lo lascio, tanto c'è il telefono a fare. Buona mattina ti chiamo e ti porto quella cosa. Così da. Usci, sto uscendo bene adesso, cosa stai usando? Ciao Aldo. Oh, ciao. L'MV4 sto usando. Mi piace questa biorgina. Mi piace bene, sto uscendo bene. Quell'altro riesce meglio. Vabbè, Antonio. Poi Rebecca, sta a posto. Tutto, un po' stanco. Oggi giornata di merda, ho spesso un caldo, mamma mia. Casa già si sta bene, ho sdraiato un po' di tessera perché chi c'è in radio, adesso sono venuto qua. Fatto bene. Ho sentito la voce di quel cocomane. ma io sono anche cocomane, però tu sei pedivella. Mi si è rotta, lo sai, sono andato e si è rotta la pedivella della moto. Adesso ho solo l'acceleratore giù. Ma non lo sai che mi stai arrivando veramente bene, è una lì. Bene, ci sono arrivando. Sì, sì. Ehi, cosa vuoi dire? Io non ho sbucato nulla, no. Già lo sai che io non ho niente, sono... Ma non è il compleanno di Salvatore. Ma perché parli quando parlo io che mi sovramuri? Sì, anche qua sta arrivando ben bene. Esce bene con la radio. Scappa, è che è troppo ingombrante, se no aveva fatto un paio di passaggi con la mia, vedi? Oh. Io uguale, se non cambia niente. 30 e 40 sono simili. La differenza c'è tra il 14 e il 68, ma 30 e 40 sono molto simili, non c'è problema. E domani lo sentirai ancora meglio Natalino, sicuramente. Eh beh, me lo posso immaginare. Non so pensare se attacchi no, che non mi pompa voce. Domani metto su un microfono e così ha finito di soffrire. Non so. Scatto? Sì, ho procurato io. Nuovo di pacca, un nuovo fiammante. Che andava? Non voglio mondezza io. Sia che sia la mia da dare, ossia che me la danno da vendere, quando mi dico me lo vendi, no, te lo vedi dove di bombetta. Questo è nuovo, tu era mio, quindi gliel'avevo dato con un 140, però l'avevo prestato e questo non l'ha mai usata. E allora me l'ha portata ieri mattina, una mezza. Forse ieri, allora, il caso di atto, c'è un sacco di cose da fare, quindi non le ho potuto portare. Domani le ho portato. Un'altra storia? No, io me li ho comprati tutti. Me li ho comprati tutti. Ne ho tre miei di K, 3M60, no? Voglio dire di Adonis, di Cagliardi, no? Poi, MBP5, col connettore del tempo te l'ho regalato a Cosa, a Antonellavissimo. Capito. E va dove? Oh, qua, ma però ma da laterale, vedi come usciva a casa di sta radio, boh. E boh, la 40 lì. No, io mi sposto un attimo là che ho mi sistemo questa sera. Dobbiamo uscire con mia moglie. Non piace una pizza, compagnia lì, dello straniero. Quindi adesso mi preparo, già alle 5:30, andiamo a fare una passeggiatina. Beh, già ci sentiamo dopo ragazzi, già sono qua intanto. Non proseguo allora. Io. No, adesso lo qua mi preparo, ma la radio è accesa. Ho sentito anche a Marco poco fa, mi sembra che era lui di sfuggita da lontano. Boh, ciao anche a lui se mi sta ascoltando. Ma ci aggiorniamo dopo, sono qui. Vai, Ento. Ehi, ciao, ci sentiamo. Natalia, vuoi fare un altro programma laterale? E se non disturbiamo, sì, o ci spostiamo o rimaniamo qua, non lo so. Non lo so, Marco, ci sei? Beh, 5 minuti in USB. Marco, ci sei? Adesso vado. E aspetta, lasciami il tempo di arrivare che devo cambiare da WFO a cosa, là. Eia. Thank you. Attenzione Antonio, di lusso. Arrivando perché no? Quanti vatti sto usando? Allora, un mezzo, ma la routine FM. Non ho fare tanti qua. Sono troppi vatti. Potrei diminuire pure, volendo. Ma le fanno con la grande, non ho come trovata così. La radio è chiara, vedi? Io se mi trovo a male. Rivendi quella bestia di apparecchio. Cazzo Sant'Antonio, bombami. È un grido, ragazzi. Ma via, tutti i canti di battabessi e... questo qua c'ha i finali più grossi, capito? Ma in FM rendono di più. Poi la voce è chiara, chiara, bella. Guarda, ci è successo parecchio di batteri, non guai. E infatti, stai arrivando veramente bene. Alleluia. Vabbè, dai, mi mollo, dai, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Antonio. Io sono quarto. Mi sono già preparato. Adesso aspetta mia figlia, poi usciamo. Cara gara. Oh, signor. Sto iniziando la propagazione, c'è un po' di propagation. E adesso come inizia? Cazzo, ieri era a manetta, non arrivavano tutti bene. Ieri abbiamo fatto un po' di collegamenti, c'è un po' di propagazione, 27, anche 10 metri, ma no? 10 metri non arriva tutta. Ho fatto due piatti di 27, due collegamenti così, c'era un po' l'Alta Italia. Abbiamo fatto due passaggi. Io non ne ho fatto manco uno di collegamento. No, ce n'è voglia. No, ma qua su 10 mi sono entrati. Attenzione, non so, c'era Bari, poi c'era uno lo stesso della Puglia. Siamo entrati, stavamo parlando qua, niente di che, senza Calabotti, già. Abbiate Calabotti a mano. Ehi, c'ero anch'io, solo che non mi hanno rilanciato, capito là? Tutti girano a Farrende, allora la giudaga da Farrà. Ma io stessi ho chiuso perché mi potrà sempre riprendendo faccenda. Già una giubbogana di validato, figurati. Solo che sono educazione, hanno chiamato, abbiamo risposto. È entrato anche Roberto, sì, mi ricordo, c'eri anche tu. Ma io non ti ho rilanciato, pensavo che ti ero allontanato a mangiare. Vabbè. Ero curioso a vedere come ti mi intendia, ne era col 3009, mi. Sì, ma non c'è proprio niente, così basta staccare il capo, già, per meno però sì, per questi locali, quello come dire, fuori di chicchiata mi ha dato. Cazzo, come lì commutatore devo buscarmi, un commutatore a 3 devo buscarmi. Costano un sacco di soldi. E attacchi lui, invece attaccano i 3. E attacchi il K, è quello che usi più spesso. L'altro te lo prepari, quando ti serve gli attacchi il PL. E così farò. C'ho quella a 2. Allora, già arriva a 3, a 4. Fai così, capito? Almeno sei sicuro. Va bene, io lo stesso, adesso ce l'ho a 4, io ho la T250 e sto usando quello come commutatore d'antenna, la volta con Palamiarsi, c'ho 4 10 per commuto 4 radio, in 3K più un Galaxy, capito? Mentre l'FT920 c'è l'antenna diretta, dei 6 metri, basta, sono in sciavo attaccata, altro non c'è. Intanto lo usi di lì solo, no? Beh, c'è un centenne, lo già, io sono 6 metri e basta. 6 metri e 10 metri con la Mantova, e il resto non mi interessa. Non c'ho tempo, anche lì c'è altre cose sto facendo. Con calma, vediamo, ho già preso il ballo, te l'ho detto, 9-1. Arrivare a volte 70 euro butta sui balti, non fare una long wire, buttarla in campagna e con quella fai tutto. E infatti poi con l'accordatore come hai accorda anche un cacciavite, quello l'accordatore del 920 è ottimo, quello della radio è digitale, è un DSP, insomma alta tecnologia di Seagate di vecchia generazione, quindi il curatore velocissimo accorda tutto, ma attenzione, che c'ho anche la T250, io la cosa l'ho fatto, io c'ho la linea completa di 140, curatore, c'ho la radio, il PS50, la T250 e l'SP430, c'ho la linea completa. E io non ce l'avevo il PS, cioè l'SP 430. E ce lo dovrei avere, me. Beh, tu dimmi, un dì è finito, non lo so. Sì, ce la so, bravo, perché armadio, quella già si trova, a 50 euro ce la truffi. 40-50 euro, ce n'era una l'altra volta, l'ho vista. Non mi ricordo l'ora, però boh. C'è le truppe, una cinquantina di euro, le colonnine già si trovano, 40-50 euro. Attaccare, ma quella tua c'ha una bella ricezione, perché l'altoparlante suo originale c'ha una bella ricezione. Ehi, già lo so, adesso c'ho la colonnina esterna, quella dell'Alan, quella grande, e poi ne ho un'altra più piccolina che c'hanno i filtri e tutto, una e l'altra, sono belle anche queste. Sì, già vabbè, a voglia vabbè, sono 4 e 3. 30, la radio già va bene, si è troppo alta, no? No, già va bene. Un'altra volta Luca mi ha detto che era troppo alta, io non tocco baguette, forse provendo. Ho toccato, ce l'ho a due, come sempre. Va bene, va bene. Sì, domani mattina intanto devo uscire alle 11, c'ho un appuntamento. Quindi ti chiamo. Ho già messo a parte anche quel cavettino, così te lo usi tu. E ti attacchi il microfono. Ho già provato anche io qua, va benissimo. Cavolo, è nuovo, nuovo, è anche abbastanza lungo. Ma anche io ho preso perché è più lungo del mio. C'è lo spinolato un pochino più lungo del mio. Forse a te ti fa anche meglio, no? Ah, boh, arrivo via, arrivi. Non c'è problema. Oh, signor. No, vabbè, se è più lungo il mio. Più lungo è meglio. Il mio sono un po' più corti. Questo è un uomo, ma lo spirava. Non so se è stato preso nuovo. Vabbè, comunque. Nuovo il microfono. Nuovo e ultimo. Va bene, va bene. Già la vento è già attaccato. 4.30. Ecco. Va bene. Io ce l'ho meno di uno. E le mie più 4 a 5. Vabbè, oh, quella. Se lo metti in più di uno, cioè, adesso sicuramente quando metti 60 devi tenere. Quello noi già lo facciamo assieme alla regolazione. Falla con me. Io ti ascolto col capo. E se magari la fai con un baracchino. Non è precisa precisa. Però mi ricordo quella lì col, quando l'ho provata io col coso, con l'MC60 dovevo tenerlo, non so se era uno, addirittura meno di uno, che cazzo mi sciombo fuori. E anche adesso è meno di uno. Non ci arriva uno. Spingi un bel modulatore. No, beh, questo 430 lo tengo con te, come una volta. Meno di due, però più di uno e mezzo, più di uno e mezzo. Ma è così, 4.30 è così, tutte le altre che ho avuto è così. Beh, va bene, Antonio, prima lo devi andare a 4, a 5, mi chiedi. E quando è arrivato il carretto, anche lui c'era uno e mezzo. Sì, no, esce tutto Perché prima non stava amplificando per forza, adesso è già amplificato, si fa tutto uscire. No, non l'ho sentito col come non l'ho sentito? Col microfono suo. Come l'hai sentito? Sì, esce una bomba, esce. No, non l'ha gentiso ancora, però un ghisso, con un microfono suo. Tanto, ci hai parlato con Mattarino col capo, quando ti ho dato il caffè. Sì, ma è detto che non ce ne ha avvisato. Non ci ho fatto caso, vuol dire. Io ho parlato con lui quando aveva il microfono che non amplificava. Oh, si amplifica un bel. E a chiamare lo capetto a pucci, via un grido. Ma meglio che sia quello che il circuito. Beh, il circuito dello tutto pulito, tutte le batterie hanno tutte oscillate. C'era un filo tocca non tocca, insomma gli ho fatto uguale al mio, ho aperto il mio, ho visto se era tutto in ordine, sono messo a posto e poi gli ho dato il cavetto nuovo perché ho interrotto quello lì, ancora non sono riuscito a metterlo a posto, sto cercando il punto perché ho interrotto per tagliare, ma tanto se non posso la pazienza, muovi, un po' funzionava, un po' no. Gli ho detto, cazzo, si tagli in oga, la buona è in oghi. Bisogna fare le cose, capito? Poi si recupera quello lì. Ehi, ma se taglia di mezzo, lo viro. E chi dà la canzone? Adesso vediamo. Ce l'ho io con lui. Vediamo se riusciamo a recuperarlo, se no si deve riuscire. Per fare qualche prova già va bene, l'importante è che ci abbia quello nuovo. Ehi, infatti. Mi sa che mi devono dare del filo grosso, mi sa che me lo metto. Le mani tagliatele. Che filo grosso devi mettere? 213. Ah! Non toccano il microfono, non toccano nulla. Sì, mettilo, non c'è provando, mettilo 213. È più... ma meglio anche la radio, capito? È più ricezione, meno problemi, tutto. Più schermato il cavo. Intanto qua c'ho il buco grosso, quindi lo posso mettere. 213 imbatte voce, però tanto lì ti devi prendere un commutatore almeno a due, dove attacchi l'antenna e la lasci sempre attaccata, un'uscita al 430, al 440 o 440 un momento, e l'altra all'altra radio. No, oh, io parlo di qua. Ah, qua. E lì allora già va bene, mi fai la calata e attacchierò l'archino, ma a casa tua questa cosa di staccare può creare problemi al connettore, soprattutto del K. E chi ne tocca mai di quello? Ma non lo stacchi quello lì, l'ha sempre attaccato. E allora, lo stacco solo da Rosmetter e boh, che non è mai ducato. Oh, poi c'è una trave più piccola, sto usando con la radio, con l'antenna piccola, molte volte la notte a cuccia, non preso. La radio va bene, va bene. Però bisogna un computatore a due, dove, capito, dove c'hai tutto sotto controllo. Ma c'è quello che su Zeta G che mi ha venduto Bugiaro, ma te lo sai che funziona un bel bene quello strumento, non mi ha mai tradito. E cosa tu? Ci funziona bene, non c'è un altro, ma carità di Dio. Già funziona. No, non mi ha fottito, dai. Secondo me l'hanno migliorato, l'hanno aumentato i brici. Non costa manco un po' come che sono lo strumento. Sì, ma se magari fusare a Roma, non è. No, l'ho guardato pure su internet, adesso lo fanno pagare bene. E che apparecchio è, Antu? Il Rosmetro, non mi ricordo se sia 201, non me ne ammentava che sigla è. Però dico che quello che mi ha venduto funziona, invece ne ho uno un po' molto più vecchio, lo stesso modello, non funziona così bene. Quello che mi ha venduto, cazzo! E quello vecchio avrà i video di rivelatori andati, li devi cambiare quelli e poi tararlo con uno professionale se vuoi che funzioni bene. Io l'avevo fatto con un accordatore, l'HP1000 che avevo, era tutto sballato per i cazzi sui. E avevo cambiato i diodi rivelatori, tutti e due, e poi l'avevo tarato con un accordatore americano che avevo. Cazzo, tutti e due uguali siano. E poi l'avevo dato a Gianni, Ma era un mostro quello strumento, perché era ritarato da me. Funziona, quello che c'ho funziona ben bene, funziona. Se lo sai, e te lo do, ne ho uno che non è andente, no? Non funziona bene, te lo do e se ci riesci a aggiustarlo. Bisogna tentare a vedere se sono i diodi rivelatori e poi metterlo sotto un altro strumento per vedere se segnano tutti e due la stessa cosa. Può essere che... ma ho dato, può essere che qualcuno abbia ducato dentro. Può anche essere, come può darsi che i rivelatori siano partiti per i truppi fondo scala, fuori scala, mi. Ah, ho capito. Eppure te l'ho porto, se lo puoi mettere a posto, perché è un peccato, Cazzo, lo vedo sempre di sul mobile, Mi degno auguri, cazzo. Ma, cazzo non mi ricordate quanto tu ero che su coso, me. Cioè... questo qualcosa l'ha impazzito, se si può aggiustare. No, non lo buttare, proviamo a vedere, a comprare i pizzi e a tararlo. Se riusciamo a farlo segnare quello che deve segnare, almeno un apparecchio che funziona, per la macchina lo puoi usare, per portarlo fuori, almeno una cosa affidabile. Capito. Se si può aiutare sarebbe una bella cosa. Cazzarola. E ti ho detto, io l'avevo fatto a un HP 1000, l'accordatore proprio mi segnava tutto barigazzi suvi. Infatti ho detto, cazzo, ma chissà cosa non funziona di un tubo. Ho preso, sono andato a Fusaro, mi ho fatto dare due diodi rivelatori, ho disaldato i vecchi e gli ho messo i nuovi. Poi per tararlo l'avevo messo, prima vedevo cosa segnava quello americano, poi attaccavo quello lì e gli facevo segnare quello che volevo io, non quello che voleva lui. Allora basta fare così, Natale. È l'unica rissa. Perché se no, gatto, se non ti segna i watt e le stazionarie, gatto, si rampa, chi non segui. Il rosmetro watt te lo serve per quello, per dirti le stazionarie con quanti watt stai uscendo. E allora era fatto fare così. È veramente un peccato buttarlo via qua. Una volta mi arrabbia, magari lo buffa, non è che lo buffa lì. Facciamo così, dai. Comprate dai va. Mia Macu. C'ho pure MFG, 250 euro. Ma male, non ne ho io problemi. Avanti 250 fa tutto. Lo smetto, avanti, metto l'accordatore, commutatore d'antenna, serie. Cazzo, l'MFG che c'ho io manuale. 250 euro l'avevo pagato. Mi dì la Marcolino. Di ricadi sono pure brici. E visto che mi nani furato, che mi nani bicicadu, 150 euro buciava, chi su della daiva. Chi su era solo un rosmetro però. Quello lì, MFG, costava anni fa, qualche anno fa, 150 euro. Adesso quanto arriva? 250. Facci un conto, vai Claudio. Cosa dice? Scusa Claudio, abbiamo parlato in due. Bentola. 250 quando è uscito costava 1.800.000 lire, stavo vendendo Mario Mazzari, 1.800.000 lire, correttore di linea del 140 e del 680. Però quella vedi già è una cosa di linea, ma quel rosmetro watt metro accoratore che è natalino pochi anni fa costava 150 euro, adesso Natalì quanto è arrivato? 250, fuori di gabbo. Di più costa, l'avevo visto di più pure. Beh, guarda le MFG e te lo dice quanto costa, se non ti riparano i brazzi. E quello VEU che me ne hanno preso della Daiva, quello di 150 euro lo guciava ed era solo wattmetro e rosmetro. Cosa c'è Natale, quello che avevo io, 599? E cosa? Quello dell'MFG, l'accordatore. Allora, 945 questo qui. Capito, dicevo quello davanti, quello che l'avevo venuto a me, c'era il vetro rotto. Boh, non me ne ricordo. Ma quelli costano me, se tu vai a vedere quanto costano a dinivare nei brazzi. A me mi ha detto quello della Vectronic. Cazzo, quello chissà qui gli adori, chissà in tu guccia. Quello tu ce l'hai. Allora non ce l'ho io. Fatto mettere lo strumento nuovo. E basta lo strumento nuovo, il vetrino nuovo, si è promesso, che era rotto. Cazzo, chi su erano acquigliatori con le balle quadrate a vino? Quello manualmente in 40 metri la manta va alla porta al vero di stazionaria, mentre invece la T250 non ce la fa. Arriva a fine corsa, poi boom, si blocca, va in protezione. Quello invece manuale è una cannonata, come la T230 che c'avevo io manuale, la stessa cosa, accordava a cazzo tutto. Ma se la T250 non ce la fa accordare è perché è l'antenna che non è accordata. dove sei accordata per quella frequenza e fasi tuc e subito ti raccoglia. E a chi hai un'antenna fortemente disaccordata per i 40, ecco perché non riesci a accordare il 250, se no con gli aburughisti non ti preoccupare. Però l'elettronica ti accorda manualmente, capito? La porta è zero, invece con l'automatico non ce la fa. Invece in 10 metri, in 24, in 18, accorda benissimo, accorda, accorda, veloce, fa boom, boom, accorda. Invece se metti in 40, no? Aspetta, eccomi. Natalia, ho visto i prezzi. Beh, il 945 è, quanto costa? Allora, venditore X da eBay 2,1950, poi ce n'è uno 2,45 più la spedizione. Questo è un prezzo da ebreo però, eh. Invece Media Globe, come al solito, ha i prezzi migliori. Media Globe lo paghi 196 euro più la spedizione. Comunque conta che è rincarato, ma sono passati anni, adesso che faccio il conto, sono passati abbastanza anni, Natalini, da quando ce l'avevo io, e a voglia. Ma lo sai il Vectrunix che avevo io che ce l'ha, quello americano, Claudio là. Sì, ce l'ho io, ma è arrivato quando eri ancora su, figurati, non ero manco sposato, io avevo ragione anno. C'era il pettino spaccato, ma ricordo perché, forse gli aveva dato un colpo, e me l'avevi dato a me, mi ha fatto mettere il pettino nuovo, ce l'ho sempre io, funziona perfettamente, e costa una barca di soldi, più dell'MFG costa il elettronico. Ehi, è americano quello lì, e quello lì ci va con tutta la potenza, bru più, perché ti segna tutti i watt giusti. 40 forse non ce la fa perché tu lo usi magari con la Mantova e la Mantova non ve la basi, no, a chi è desimetri a braccio lo di polo, invece il Vectrunix anche la Mantova ti accorda. Sì, però adesso tutte le bande accorda manualmente, poi c'è A, B, C, D, E, F mi pare, o G, F, G non so, c'è la tabella, capito? No, buona, non l'ho mai dato, sempre dentro l'armadio, l'avevo provato una volta, era perfetto, qualche giorno l'ho attacco di nuovo, ma non c'ho più posto come prima, ho messo poca roba qua, cioè va bene. Riprendi Antonio, dai, 2 minuti e arrivo subito. Chi c'è una belva, il Vectrunix, cazzo, è una belva, sì. Veramente io con Ghisso di Polo con la G5LV anche in 27 andava a tre parti. Adesso faccio una long wire, c'è un vigile alle balle, mi sotto la Mantova, pongo una G5LV senza gli 80 del blu, giusto per fare qualche così, due chiacchiere in testa, però non metto niente perché sennò diventa un casino qua, diventa un mutinaccio. Se metti la G5RV avremmo in pariga, pure gli 80 ti metto, e 13 metri a qualcosa il braccio, insomma. Capo, lo sai quanto buccia che c'ho a HP1000? 219 euro. E non si va nuda. A chi si segna come ti segnava chi sui va più io, lo devi rampare, perché lo devi tarare. Quelli ZG non c'è da fidarsi. Ci sa, abbiamo migliorato. E quello MFG c'ha ABCD, perché lo devi mettere nella banda sua, perché è decametrico quell'accordatore. Come questo, anche l'MFG c'ha le lettere. Secondo che banda devi andare, lo devi mettere nella lettera sua. Sì, quello è il prescia lettore. Ci sono i lineari decametrici che sono così. Cazzo, se non lo metti nella banda sua, no, non vanno. Lo puoi anche bruciare il lineare se non lo metti nella... Perché lo... tanto per dire, va in 40 metri e va nella G per esempio. Va. E se no non accorda il lineare. perché hanno l'accordatore interno, sono decametrici. Secondo la banda dove vai devi mettere la lettera del coso. Non è che hanno solo plite, lo adno, hanno anche il precettore. Allora, pure quelli anche incrociati fanno, lo sai. Non penso che sia amaro visto, no? E il mio non è anche incrociati, l'MFG. No, la ZG. Bisogna vederci andare, però. Se segna bene, mi. Se segna giusto. Capitola. Perché quelli della ZG sono fatti così, mi, la Garlona. Boh. Io penso comunque una cosa che costi così tanti soldi. Cioè, deve essere pure buona, Anto, conta che lo ZG a raghi incrociati forse potrebbe essere un po' più curato come precisione, però te lo fanno pagare così tanto che conviene, se vuoi solo rosmetro battometro, ad andare sul live. C'ha lo strumento enorme, grande, c'ha 2 kW di fondo scala, c'è anche il modello a 3, ma è esagerato. Ho capito. Non lo so com'è. Allora, lo ZG 201, rosmetro battometro quello a 30-35 euro, stazionaria non le segnava, andavi sull'1 niente, sull'80 niente, sul 200 niente, sul 208 niente, ho detto ma qua c'è qualcosa che non va, riprendi Claudio, di chi è rimasto qua? Noi. Vabbè, quindi che Antonio, Natalino, Claudio magari in affaratto, non è entrato nessun altro, no? Negativo, io, Claudio e Antonio, ce l'avamo. E io? Caro Marco, e infatti, se vuole uno dai incrociati che gli serve solo il metro wattmetro, gli conviene un dive, vanno in uno schermo bello, grande. L'MFG per esempio è piccolino lo schermo, anche se ha gli incrociati e va solo sulla 300. Se vuoi qualcosa di più adatto come il rosmetro, il dive è ottimo. Tu pensa che io avevo quello, però quello faceva solo VU, quello che avevo io, ad aghi incrociati. Quello lì cazzo, 150 euro mi baricucciava, se non dimmi più. Buonasera a todos. Uè, ciao già, mi ha segnato. Cappa. Come va? Tutto ok? Mi stai arrivando a 9.40, cosa vuoi? Che ti faccio pagare lo smitter? Già nel caldo? Ah? La radio com'era sta lì? Che ho fatto l'abbinamento. Cazzo ultima. Cappa. Va bene. Questo sostituisce il garage. Bisogna vedere cos'è. È un serpente. Il cobra non è una biscia. Ci mi ha chiamato, mi ero al telefono, c'ho entrato. Doppio room è entrato. Chi è entrato doppio room? Avanti. Ehi, ciao Clas. Ciao. Fatto un abbinamento, come va questa radio? Devo essere sincero, è metallica per me. Vabbè. Ma come ti è? Però io mi sono ascoltato un bel forno. Vabbè, il tuo parere è quello che dici tu. Tu chiedi a me, io ti dico che è metallica, molto metallica, non so se Marco è d'accordo o chi può darti un controllo serio, io ti sto ascoltando col capo, è metallica, che poi sia forte, amplificata, può anche starci, ma è metallica, non ha tonalità. Metallica già è metallica, ma già va bene come radio, a meno che non gli cambi la capsula a quel microfono. Bisogna vedere che microfono è quello. Ma cosa? È sua delta questo qua. Cazzo, bisogna di un bicicletta. È metallica, cioè già è vero quello che dice. Oh, è foci, come radio è foci. Oh già, prova a parlare un po' più vicino, si sente un po' l'effetto stanza, però se parli più vicino, cioè c'è l'effetto lontananza, amico, se parli più vicino sicuramente migliora. Guarda a vedere, adesso più vicino. Io la preferisco così, più da vicino, se no sembra troppo l'effetto rimbombante. Infatti, troppo lontano stava parlando. Guarda, adesso ho tolto l'eco, come va? passaggio più lungo già. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buoni girata, che non tocca più nulla. Va meglio senza eco? Ma perché cazzo sta pesando? Saletta e cobra con l'eco. Scappa. Tu si adesi dunque l'eco. Per quello che era mentale, adesso va bene. Ah, vabbè, dai. Poi mi ascolto. No, è così, c'ha ragione Claudio. Gianni. Cazzo, se tu non durate con l'eco, ma è fatto a Maria Metallica. Sentivo questo rimbombo, questa roba friggendo, non mettere l'eco, usa, se mette anche che cazzo è come mettere. Se usi il microfono normale, allora metti l'eco. Appena appena, così fa benissimo la grande, lascialo stare così, senta ecco però. Ehi, riprendi Marco, buonasera. E l'apparato qual è però, si può dire? Il Cobra. Ah, il Cobra, quello bello, famoso. Esatto. C'è un bel segnale comunque qua, io che sono lontano, va veramente bene. Arriviamo una signora radio, non ce n'è per nessuno, non ce l'ha nessuno con la radio, dovremmo averlo GTL 200, che è proprio bomba. Ho usata io per 2 mesi con la radio a casa, che tutto spento per me. Cazzo, già un bel segnale, c'ha, ma che paragone a chi tu, vabbè, c'ha problemi quello là. Cazzo, veramente lo sento bene qua. Dico quant'è, 9 più 20, 5 mi sta arrivando qua. E io non l'ho mai visto questo segnale, la verità. Manco io, a me mi arriva 9.40 qua, ma arrivi solo già nel profeta, ma siamo a un tiro di schioppo e Antonio mi può arrivare con questo segnale. Boh, l'assino mi pone mai arrivi con questo segnale. Gianni, mi sta arrivando il segnale di Gianni Rubroffetta, dimmi giù. Ragazzi, ma c'è un potente da un bel impatto, non è buccia l'arancia, no? È chiaro che arriva a fronte. Il lineare non è per attaccare già, perché c'ha solo 2 potenze. Già. Poi? Non per attaccare il lineare. No, non ho attaccato niente io, non ci ho attaccato nulla, adesso l'ho abbassata la potenza verso la minima. E il 9.30 si arriva a picchi di 9.40, allora si vede in burro i picchi di modulazione. Sì, ma infatti tra l'altro anche lì quella c'ha la potenza, capito? Alta e bassa. Se metti in alta potenza pompa un po', se metti in bassa pompa lo stesso, però te ne accorgi del cambio. E qua è 9.25, lo stesso. Ah, ma è da un po'. E ci vedono anche i picchi di modulazione quando parla con la potenza minima. Proprio si vede evidenti. Si conferma, va bene quella radio, tutto un plato. Non mettere ecco però già, lascia la saletta così. Che va bene, non tocca nulla. Era troppo alto l'eco, non l'avevo regolato, dai, adesso mi sono ascoltato in cuffia e ho regolato il microfono. E vabbè, adesso è potenza minima, adesso sta uscendo con pochi watt. Bella già, se tu ascolti quello che ti dicono, è bella, adesso va bene, ultima modulazione, poc'anzi no, era metallica, barattolosa, perché avevi l'eco troppo alto forse, adesso è regolata bene, lasciala così. C'è un momento eco in me. Il profeta mi arrivi così, ma perché? Perché siamo a un tiro di schioppo, Gianni è più lontano e mi arriva lo stesso segnale, uguale. A pompa Gianni, a pompa, vai Antu. Io che sono lontano, cioè diciamo che come Claudio, io che sono lontano me ne abito un bel, me ne accorgo molto. Cazzo, non ti avevo mai visto con questo segnale, la verità ti dico. Pompa, quell'affare è pompa, altro che. Ma non sono molto distante da Gianni, io lo vedo la parte bassa della città, tu invece no, non vedi niente, mi sei in un fuscio, quindi se ti arriva forte a te, figurati a me mi arriva 9.25, però potenza bassa, la potenza alta 9.30. Io me ne accorgo molto di più. Essendo in basso me ne accorgo più di tutte. Cazzo. Noi siamo contenti noi siamo sempre contenti quando nasce bene. Non è che lui mucciuracchi non ci vengono. Io sono contento quando nasce bene. Mi dispiace per quell'altra radio, vabbè, oramai ci abbiamo messo una pietra sopra. Però Gianni è sempre uscito bene, sempre, non l'ho mai sentito. L'ultimo periodo è che stava criticando, ma c'era un problema di base. Marcolino sempre in piedi, no, tornata a Pignara.